serata del martedì, siete su Rock FM, parte lo spazio di Arden Davy dalle 20 alle 21 circa, replicato poi il giovedì sera. Il benvenuto vi viene offerto come sempre dalla mia presenza, spero piacevole per voi, Marco Gravelli con lo sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano con l'autore Simone. Oggi abbiamo nella prima parte tante novità, nella seconda intervista con una band italiana che si chiamano Kenos. Allora iniziamo subito con In Rage, pubblicato da poco il nuovo album per la storica power metal band tedesca del cantante e bassista P.V. Wagner, in attività ormai da più di 20 anni. Confermato in line-up il bravo chitarrista bielorusso Viktor Smolsky, mentre alla batteria c'è il nuovo ingresso di André Hilgers dei Silent Force ed Axis, che va a sostituire Mike Terrana. A 2 anni dal precedente Speak to the Devil è uscito ormai, che era suddiviso da segnalare in 2 parti, una con orchestra e l'altra più potente tecnica. Pivi è tornato al classico power, anche se le composizioni risultano più orecchiabili rispetto agli ultimi 3 album. Si intitola Covered in Stone, uscito da qualche settimana su etichetta Nuclear Blast. Ci sono 10 brani, oggi vi propongo il motivo dal titolo Gentle Murders Rage. Gentle murders march away, awful. La formazione tedesca dei Rage con l'album Carved in Stone, uscito da poche settimane sul mercato italiano e mondiale, il pezzo era Gentle Murders. La prossima band arriverà in Italia per una serie di concerti, la ospiterò proprio in occasione del concerto di Milano, sto parlando dei Tigers of Pentang, proprio loro, lo storico gruppo della New Wave of British Heavy Metal inglese, che hanno un cantante italiano, cantante dei Mantra, che è Jacopo Meille, che sarà qua ospite l'11 di aprile, perché loro saranno in tour ad aprile per 4 date, il 10 all'Auditorium Flog di Firenze, l'11 al Music Drone di Milano, il 12 al Lussi di Verona, il 13 al Sottotetto di Bologna. In questi giorni hanno pubblicato, ma in Italia non c'è, quindi di difficile reperibilità, questo EP che consta di 5 pezzi, 2 sono nuovi e 3 sono riregistrati e fanno parte del loro storico materiale dei Tigers of Pentang. Il lavoro si intitola Back and Behind. La canzone che ho scelto è una delle due inedite, si intitola Beauty the Hecat e sono i Tigers of Pentang. No more regrets, I know what I need. Burning in the air. Warriors of Penteng con un inedito da questo EP, anzi uno, ce ne sono due di brani nuovi. Questo è Bury the Hacket con la voce dell'italiano Jacopo già dei Mantra, quindi Tigers of Penteng, storico gruppo della New Wave British Heavy Metal in arrivo per 4 date nel mese di aprile. Altra band che suonerà l'11 di luglio come headliner all'Evolution Festival sono i Cavalera Conspiracy. Anche perché l'album è pronto, arriva il 28 di marzo, è l'album d'esordio per la band brasiliana dei fratelli Cavalera. Entrambi ex Sepultura, sono Max a voce e chitarra, che aveva creato anche i Soulfly, e Igor alla batteria. Il resto della line-up è completata con Mark Rizzo dei Soulfly alla chitarra e il francese Joe Duplantier al basso, che milita nei Gohir. Le canzoni sono state registrate con Logan Mather, ex Machine Head, che ha curato anche la produzione. Si tratta di un sound molto tosto, diretto, senza varie complicazioni. L'album si intitola come il brano che vado a proporvi in anteprima, Inflicted, Cavalera Conspiracy. Across the land, no more pretending. mancare l'appuntamento con le Metal News, parliamo di Glenn Hughes, resi noti altri dettagli del nuovo album per il celebre cantante e bassista inglese. Il titolo, ricordiamo, è First Underground Nuclear Kitchen. Ci saranno 11 brani. Le parti di batteria sono state nuovamente suonate da Chad Smith dei Red Hot Chili Pepper. Uscita prevista per l'11 di maggio, si parla di un album abbastanza funk e di supporto è stato realizzato il video del singolo Love Communion, e poi Glenn Hughes proprio in quel periodo sarà presente in Italia, Bologna e Milano per due date. Novità in casa degli Ice the Earth. Innanzitutto è stato reso noto l'ingresso del nuovo batterista, si tratta di Freddy Vidales, proveniente dagli Infusion. Inoltre, in anticipazione del prossimo album, Something Wicked Parte 2, previsto per la fine di quest'anno, è stato annunciato che il singolo I Walk Among You verrà pubblicato a giugno ed oltre alla title track conterà altri 3 brani della parte 1, ricantate dal nuovo vocalist Matt, ritornato in lineup da qualche mese. Michael Kiske ha resi noti i dettagli dell'album acustico del cantante tedesco ex Halloween. Il titolo è Past in Different Ways. Come suggerisce il titolo, come annunciato, sono state riprese alcune tracce degli Halloween, sono state reinterpretate in versione unplugged. Le canzoni saranno 11, una delle quali è un brano inedito. Da segnalare nella tracklist la presenza di You Always Walk Alone, You Got the Right, Little Time e U-Turn, pubblicazione per il 9 di maggio su etichetta Frontiers. Dark Funeral, in uscita il 22 di maggio il secondo DVD della black metal band svedese, il titolo sarà A Terra Orbis Terrarum Parte 2, conterrà brani dal vivo registrati durante il tour di supporto dell'ultimo album in studio. Album dal vivo invece per Marty Friedman, il bravo chitarrista ex Megadeth ed ex Cacophony, ha completato le registrazioni anche del prossimo album solista in studio. Resta ora il lavoro di mixaggio e masterizzazione. Nel frattempo, e per questo vi parlavo di album dal vivo, è disponibile il suo primo album live dal titolo Exhibit A, due punti, Live in Europe. Si compone di 16 brani, è uscito in Giappone anche Exhibit B, due punti, Live in Japan, che contiene il CD Live in Europe e il DVD dal vivo filmato in Giappone. La mia copia è solo quella europea, distribuita dalla Mascot Records olandese. Come vi dicevo, 16 brani. Andiamo ad ascoltare Elixir, la cui versione in studio si trova nel suo ultimo album in studio dal titolo Loudspeaker. questo anche dal vivo, bravo bravo Marty Friedman, già ex Megadeth, Live in Europe. Questo è un album dal vivo appena pubblicato, Elixir il pezzo che vi ho proposto. Andiamo alle ultime due band in questione, parliamo dei Corchiplani, che è una forte band abbastanza nota anche in Italia, proveniente dalla Finlandia, e che hanno una certa notorietà anche qua da noi. Gruppo composto ufficialmente da sei elementi, il cui sound presenta anche flauto e soprattutto violino. Per quanto riguarda le origini, la band nasce alla fine degli anni 90 col nome di Shaman ed aveva pubblicato due album cantati in finlandese. Visti gli argomenti trattati, decidono di cambiare il moniker nell'attuale Corpiklaani, che tradotto significa il clan della foresta. Nel 2002 il leader cantante e chitarrista della band decide di unire il metal al folk finlandese, così cerca altri musicisti per dar vita a questo progetto. L'esordio a nome Corpiklaani arriva nel 2003 con l'album Spirit of the Forest. Seguono altri due album che gli hanno permesso di accrescere la propria notorietà in Europa. Ad un anno dal precedente lavoro, questa settimana viene pubblicato il loro quinto, Corven Kuninga, che significa il re delle foreste, tramite l'etichetta Nuclear Blast, con la quale hanno stipulato un contratto alla fine di agosto dello scorso anno. L'album sarà disponibile anche in limited edition con una bonus track. Andiamo a proporre la traccia intitolata Matt Samies, che è anche il singolo, è stato pubblicato anche il video. Finlandese cantato in lingua madre. Il 21 di marzo, questo venerdì, sarà pubblicato questo nuovo album dei Corpiklaani. E arriviamo anche all'ultimo pezzo per la prima parte di Arden Devi, poi intervista con i Canals. Andiamo ai Children of Bodom con il loro nuovo singolo, che anticipa il sesto album per questa metal band, anch'essa finlandese e precisamente di Espoo, numero uno in Finlandia. Questo brano, che si intitola Blood Drunk, che anticipa appunto il nuovo album che verrà pubblicato il 14 di aprile. Il leader del gruppo è il quasi 29enne cantante e chitarrista Alexi Lailo, che ha creato la band nel 1993 quando aveva 14 anni. Novità per quanto riguarda la copertina, questa volta che sarà multicolorata, perché gli ultimi erano tutti monocromatici. Il primo e il penultimo rossi, il secondo verde, il terzo blu e l'ultimo bianco. Questo appunto è finalmente un insieme di colori. Vi lascio con questo pezzo e alla seconda parte di Arden Devi di quest'oggi, con lo spazio proprio insieme all'intervista dei Canos. La formazione è quella dei Children of Bodom. We'll be right back. Eccoci, dopo aver ascoltato le note del brano che dà il titolo al secondo lavoro dei Kenos, che si intitola appunto The Craving, come annunciato abbiamo due componenti della formazione che sono esattamente Alex alla voce. Ciao ragazzi. E Jaco alla chitarra, uno dei Ciao due chitarristi, tutti. Giusto? Sì, sì, esatto. Il resto della band da chi è composto? Marcello Facchina al basso, e Domenico Conte alle le altre chitarre e Sergio praticamente alle batterie. Sì, che alle batterie, alle super batterie, un tritacarne, ragazzi, piccolo ma scassa di brutto. Ma scassa di brutto. Allora, Kenos con questo lavoro che non è nuovissimo, giusto? Ah, no, non del tutto, no. Praticamente sì. È uscito nell'aprile del 2007. Vabbè, quindi quando è uscito proprio dallo studio e poi è venuto pubblicato. Poi nel frattempo si è riuscito poi a... Ecco, voi già, e poi è uno step che faremo poi nelle prossime domande, state già lavorando, anzi quasi finito il prossimo lavoro. Ma facciamo giustamente un passo indietro, visto che questo è l'album attuale in commercio vostro, come abbiamo detto poc'anzi, forse, tra non molto, in questo 2008 uscirà il terzo, ma andiamo agli albori. Quando nasce la band? Anni 80, anni 90? No, nasce nel 2000. Addirittura siamo... Sì, nasce nel 2000 da un gruppo di ragazzi che uscivano già da altre esperienze molto importanti. Tra cui io ho lavorato anche con gli Arachnes, quindi serie di... Salutiamo Franco allora. Salutiamo Franco, ciao, Franco. Infatti. E niente, dopodiché, quindi eravamo già carichi. Provincia di Varese, quindi. Provincia di Varese, supporre, sì, esatto. Varesotti, capito? Sì, tra Milano e Varese, quindi Bustarsizio, Legnano e così via. E alla fine, niente, siamo nati con una formazione da 7 persone. Addirittura? Sì, avevamo anche un'altra voce femminile, più le tastiere. Più le tastiere, esatto. E quale tipo di musica veniva proposta? Similare a questa? No, praticamente era diversa, era sempre un prog però un po' più sinfonico, con appunto l'inserto delle voci femminili, che sì, poi c'è da dire che era derivato di quel, del trend di quel periodo, no? In cui c'era ancora l'influenza gotica che entrava anche nel metal estremo, quindi loro poi, già essendo un nucleo di persone che derivavano da diversi settori musicali, vedi lui che veniva più dal prog, chi invece veniva più come Marcello dall'estremo, no? dal death metal, addirittura il tastierista Michele, che tra l'altro colgo l'occasione per salutare, per un gran musicista, veniva dall'ambito blues, quindi molto Hammond, insomma molto... abbastanza disparati come proposte. Assolutamente, generi musicali. Sì, assolutamente sì, avevano un'altra voce al momento che poi ha preso un'altra strada, e lì è subentrato, diciamo, il cambiamento, un cambiamento radicale anche però dal punto di vista musicale. Permettimi, con quella formazione è stato pubblicato un lavoro, giusto? Sì, una demo, sì. Una demo, esatto. Una demo. Sì, una demo che poi appunto dopo quella demo abbiamo deciso di tagliare, ma non perché perché ci fossero delle incompressioni fra il gruppo, proprio perché non sentivo più vostro quella, no, genere, perché se il termine è giusto è commerciale, però non volevamo essere un gruppo commerciale giusto per fare l'album e basta. Eravamo dei bravi musicisti, lo siamo ancora, e quindi volevamo far vedere tutte le capacità senza supporto di altre cose che io potevano, fatto tempo poi a vederli una prova o due, il ragazzo, il tastierista e la cantante. Poi sono arrivato alla terza prova e di colpo mi hanno detto: Ale, sai che non abbiamo più le tastiere nella voce, ma c'è poto, che figata, no? E poi invece la cosa ha fruttato un sacco. C'è stato un momento iniziale in cui il sound era diverso, no? Cioè quello che suonavi alle prove ti sembrava, beh, incredibilmente più cattivo, più comunque più ruvido, no? Mm-hmm. Perché eravamo abituati al tappetone di tastiera sotto, all'intervento della voce femminile, comunque ammorbidisce il... Certo, in quel modo è scremata un po' la quella presenza, sì, ha reso molto più carico il suono, sì, in genere. Sì, diciamo che sono cresciute le palline, insomma. Questo avveniva nel 2000? Nel 2001. Subito dopo abbiamo preso Ale e niente, abbiamo dato un po' più l'aspetto black e un po' innovativo, anche per il fatto di essere comunque all'inizio una death prog band. Sì, ci chiamavano in mille modi. Sì, io poi non ho mai sopportato questa cosa qua, che c'è sto vizio di etichettare e incasellare, no? Cioè mille generi, dei sottogeneri. E alla fine, sì, ci hanno chiamato techno death, progressive death metal, trash death metal. Guarda, insomma, alla fine... anche se non lo vuoi, ti arriva poi l'etichetta, sì, tua, sì. Quindi di cose. Bene o male la devi accettare poi. Però nell'ambito musicale è una cosa incredibile adesso col metal, no? Cioè, è un... io vedo dei generi, dei sottogeneri... Ma non solo nel mondo metal, se tu fai una semplice ricerca via internet sulla parola rock, ti si aprono di almeno tutto. 400 sottogeneri, quindi ti ci perdi veramente. Decisamente. Inserendo quella che è la parte elettronica più alternativa, eccetera, naturalmente, quindi è veramente un mondo particolarissimo questo del rock, così come penso degli altri generi. Secondo me è una cosa più che altro anche relativa alla nostra società di adesso, cioè, perché siamo abituati a vedere lo scaffale per sta questa di cosa di fatto lo che scaffale. Ce lo siamo creati noi, yes, se non noi qua quello, presenti, ma no decisamente è quello che fa pensare, infatti, secondo me, no? Quindi arriva comunque con questa nuova lineup. Con l'Ale e tutto il resto abbiamo cercato di dare un altro aspetto, un po' più grezzo, però molto facendo vedere appunto le qualità di ognuno. L'album è andato comunque bene, avevamo appunto con l'Adrenaline firmato il contratto e poi messo in giro. Abbiamo fatto tra l'altro in quel periodo molte altre date. Siamo molte nel tournée. 2002 o ancora 2001? No, è già passato qualche anno. Quando esce l'album? Praticamente era già il 2000 e quasi 5. Sì, perché l'abbiamo tenuto, esatto. Finito il master, ci siamo fermati di colpo, no? E effettivamente era quel panico di aver finito, di aver raggiunto un traguardo che ci eravamo preposti tutti singolarmente da un sacco di tempo. Veniamo tutti anche, appunto, dicevamo, da altre band, no? Con le quali non siamo riusciti poi a concretizzare il disco in sé. E ce l'avevamo lì e ci sembrava incredibile, no? Poi c'è classica cosa degli artisti che purtroppo ha preso anche noi, il voler, no, forse qualcosa non va bene, no, forse dobbiamo, fino a che ci siamo detti: oh ragazzi, cioè, così, buttiamo fuori. Ma anche perché io dico che le opere in generale, artistiche in particolare, adesso parlando di musica, no, hanno una prerogativa. Quando tu inizi a produrle, a comporle, è come dare un colpo a una ruota che inizia a girare. Finché sta ruota non si ferma, non è finita. In quel momento si era fermata e non ce n'era per nessuno. Alla fine ci guardavamo in faccia, è così, non lo cambieremo mai, sarà questo, buttiamolo fuori, perché alla fine è quello che vogliamo dire. Detto quello, bom, fine per quel tipo di canale, no, che avevamo preso. The Craving, tutta un'altra roba. Ok, quindi dalla uscita del precedente lavoro sono passati, seguite comunque delle date dal vivo. Sì, no, ma infatti anche all'estero. Tra l'altro, il fatto che è uscito anche con anni di, tra virgolette, ritardo, oltre che alla maturazione della band, è stato. Siamo molto... sempre in maturia, chino mio. È stato molto, cioè la cosa che ha fatto trascinare questa cosa molto più in là è stato il fatto di fare molte date con altre band a cui appunto sopportavamo, tra cui cito The Crown, Entombed, Dismember e così via. Italia e estero? Più che altro Italia. Sì, qualche, Italia. Esatto, inizialmente Italia, poi siamo andati anche in Slovenia e qualche parte dell'est Europa, per poi appunto... Tante belle ragazze da quelle parti, wow. E appunto alla fine, quando poi è uscito, altre date, altro, diciamo, altro successo per quanto riguarda Intersection. Sì, c'era preso come l'iperattività, cioè dal momento di stallo che avevamo avuto, di colpo ci buttavamo in ogni situazione possibile, perché c'era venuta proprio la voglia di farlo girare questo disco, cioè di proporlo, no? di sbatterlo in faccia alla gente, perché secondo noi, secondo me attualmente ancora, quel disco lì è qualche cosa che... è ancora puro in un certo senso, no? Quindi ha quella purezza che può essere innovazione, se lo ascolteremo come al solito tra 10 anni. Certo. Magari qualcuno lo dirà per adesso. Invece quello attuale, che la gente può naturalmente ritrovare, quello che, come hai citato, è uscito nell'aprile del 2007, The Craving, che differenze sostanziali altra storia, ha? Altra storia, cioè più è maturo. Stato ma neanche, sì, forse da un certo punto di vista di sonorità indiscutibilmente più maturo, ma dal punto di vista di come è nato. E ogni volta è diverso, cioè io adesso non vorrei battere sempre lo stesso chiodo che è quello delle donne, no? Mm-hmm. Però è come se andare a letto con una donna ci vai e per piacere personale e per scopo magari di mettere al mondo qualche cosa, no? Ogni volta, anche se l'obiettivo finale è quello, lo fai in modo diverso e lo fai ispirato e dalla donna e dal momento in cui lo stai facendo e da quell'insieme di cose, no, che satellitano intorno a una persona che magari le recepisce per poi sbatterle su un supporto come il CD, piuttosto che scrivere un libro, piuttosto che fare un quadro, no? E lì su The Craving c'è stato di nuovo un ribaltone, no? Era finito il periodo Intersection da cui si era generato tutto, quindi c'era anche la voglia di mettere tutto quello che avevamo, cioè volendo c'erano più idee dentro Intersection che in The Craving, ma non per volontà, per un fatto proprio che ogni cosa è a sé stante. E il disco nuovo, premesso che sarà il migliore, perché ogni disco è il migliore, però avrà ancora un altro aspetto. Quanti pezzi avete già pronto, se li avete pronti? Più o meno dovremmo avere pronti almeno 8-9 pezzi in preproduzione. Sì, in preproduzione, anche se ce ne sono di più, poi ne metteremo comunque un massimo di 10. Comunque, riprendendo il discorso, il fatto è che oltre, intendevo la maturazione, anche il fatto di conoscerci poi come band, ma anche come amici, nel senso che dopo, sì, a distanza di quasi 7 anni, giustamente si crea un'empatia, una sinergia, un tutto, e che ha, sì, si scazza anche un casino, perché, cioè... però ci sono i pro e i contro, i pro e The Craving, sì, anche un sacco di altro, cioè, perché poi il discorso emozionale frutta anche da quel punto di vista, cioè la rabbia, le magari incomprensioni interne, cose normali che caratterizzano un gruppo di persone che lavora insieme, no? Hanno però caratterizzato anche il fatto che, malgrado magari questi scazzi interni che abbiamo avuto inizialmente, tu vedi sciogliersi molte band, noi invece no, sono, cioè, rafforzati. Addirittura tu magari non avevi voglia di vedere una persona, era l'ultima cosa che volevi fare, andare in sala prove e farti 4 ore con la faccia di questo davanti, perché non lo potevi vedere dalla sera prima magari, però ci andavi e quando eri lì dovevi essere dare lì il massimo. Sì, sì, cadeva tutto e rimaneva la band. Le canzoni di questo The Craving a livello di liriche, suppongo te ne sei occupato, sì, tu. Sì, sì, sì, sì. Sono delle storie tutte a sé stanti, di tua fantasia, di tue esperienze vissute? Non sono storie in sé, non hanno una trama, diciamo, discorsiva, non è una roba, è più una cosa poetica, no? Allora, suppongo che tu, non so la vostra metodologia di lavoro, però hai sentito prima quella che era la stesura della dipende, musica? Dipende, cioè non c'è un metodo, diciamo, preconfezionato che usiamo. Delle volte mi è capitato di scrivere dei testi di getto perché me la sentivo, ispirato. Esatto. e poi dovergli trovare la musica da mettere sotto e tenerlo lì magari sto testo per un po' finché non trovava la canzone. Però arrivava, arrivava. Quindi, ma perché gli arrivava tutto appunto, soprattutto le liriche, no? Allora, tieni conto che Intersection, Craving e Extortion, che sarà il titolo del prossimo terzo, esatto, album, sono connessi come testi, proprio perché non è che parlano di raccontano una storia, sono emozioni causate dalla vita di ognuno di noi, no? Viste però attraverso quello che non è l'occhio che osserva la materia, cioè le cose materiali, no? Viste da quello che porti a casa, no? Ciò che ti possono suscitare i rimorsi dentro, le passioni, le incazzature, no? Quando anche non hai niente da dire perché rimani zitto, no? Ed è tutto un insieme di cose che diciamo messe insieme alla musica rendono esattamente e precisamente la sensazione che vogliamo trasmettere. Ecco, con The Craving avete effettuato un tour maggiore a livello di date rispetto con il precedente, anche all'estero, con i Vital Remain, quindi un'esperienza che è servita magari sia dal punto di vista di coesione della band, sia dal raffrontarsi in situazioni al di fuori di quelle italiane. Decisamente, anche dimagrire un casino, siamo tornati magrissimi. Quando è avvenuto questo tour? Nell'aprile, quando è uscito The Craving? Quindi nell'aprile 2007. 2007, esatto. Sì, era appena dopo che era uscito. Sì, era... cioè praticamente ce l'avevano consegnato praticamente in quei giorni lì, siamo tra l'altro riusciti poi a portarlo anche Avete girato paesi dell'est Europa, allora, centro Europa? No, praticamente le date sono state Irlanda, Inghilterra, Scozia, Olanda, Germania, Danimarca e Svezia. Quindi mi fa paura, sei lungo, sei ancora a memoria. Lui c'era, io c'ero e un lungo siamo... tour, quindi praticamente un mese in giro per sul tour ed è stato situazioni bellissimo. Quindi con un raffronto con un pubblico che probabilmente non vi conosceva. No, esatto. Non ci conosceva e siamo stati veramente sorpresi noi a vedere la gente che veniva e guardava proprio alibita, come, cioè, non si aspettavano, perché sei bello, Jacopo, può essere anche quello fa no, a parte gli scherzi, cioè abbiamo visto veramente, più che andar giù nel pogo, rimanevano così. Ad ascoltare. Sì, rimanevano, ma a guardare, come per dire, gente che non mi aspettavo io, tra l'altro, di trovare in Olanda gente che si faceva autografare la faccia, cioè cose di questo genere. Abbiamo visto che ha funzionato. Insomma, un pubblico che vi ha scoperto, sì. Che veniva magari per vedere appunto Vital Remain, ha trovato anche voi. Tra l'altro, le date che mi sono piaciute maggiormente sono state in Danimarca, che abbiamo trovato tantissimo pubblico. Pubblico in, caldo. Parlando di tutti, dove l'avete trovato? In Danimarca. E poi Olanda, sì, Olanda, dove si faceva fotografare, ci facevano fare gli autografi ovunque. E poi sottolineiamo l'ovunque perché ha un aneddoto dietro, ma forse non è il caso di raccontare. No, vabbè, lo raccontiamo. Allora, diciamo che Copenaghen e l'Olanda sono state, da un punto di vista, perché poi alla fine uno dice vado in tour perché io voglio proprio. Vado in tour perché prima di tutto è un'esperienza libidinosissima, no? Cioè, perché vai in giro e suoni. Quando non suoni fai tutto ciò che ti piace fare, diciamo, nella sono situazione, tutti sabati sera a ripetizione. Nella situazione mentale che ti permette di farlo veramente alla grande. E quindi godi di tutto ciò che ti arriva. E in quei due casi lì abbiamo goduto, cioè, ci è arrivato bene, insomma. Cioè, è andato bene, abbiamo capito. Tra l'altro anche abbiamo avuto un altro aneddoto a Gothenburg in Svezia, dove c'era Jesper degli In Flames, che poi è arrivato lì e ci siamo salutati, abbiamo bevuto insieme, una cosa bella, cioè, tra l'altro una cosa inaspettata, perché è stata una data infrasettimanale, non pensiamo che adesso, perché uno va in tour adesso in settimane, lunedì e martedì, ci sia il macello incredibile, no? Ci capitavano le date magari vicine al weekend che erano cariche, e quelle magari infrasettimanali un po' meno. Capitiamo in questo locale a suonare, non c'era tanta movida, insomma c'era movimento ma non una roba esasperato. Incredibile, no? E guardiamo sti quattro ragazzi conciati come fuori come le mie, diciamo, chissà cosa hanno preso questi qua, andiamo a chiederglielo magari. Ma quello non è. Ed erano due o tre componenti degli In Flames, no? Ed è finita a birra e salsiccia. Okay. Bene, allora, tra breve andremo a chiudere questo nostro intervento con un altro estratto dall'album. Album che ha visto anche la realizzazione di un video, proprio il pezzo che ascolteremo. Sì, ci stiamo lavorando quindi, ora. Ah, deve ancora uscire. Sì, sì, esatto. A proposito di quel pezzo lì è il pezzo che aggancia l'album prossimo, che è tutto basato, se tu guardi il titolo, è scritto Who is Key. Chi è la chiave o whisky? L'album nuovo sarà tutto sulla linea di ciò che sembra e ciò che è, no? Quindi anche i titoli saranno strutturati su quel tipo di linea. E diciamo che è il pezzo che più esprime la nostra realtà, no? La realtà più che altro di strada, la realtà street, no? La vita, diciamo, che conduce uno che suona la nostra musica e non lo fa per atteggiamento, ma lo fa perché ce l'ha dentro, no? Cioè, è quell'evergreen che ha sempre tinto il rock di un certo colore nero, no? Ecco, pensate di uscire con l'album fine 2008 o prima dell'estate? Ma, oppure non vi siete prefissati nulla? No, esatto, bravissimo. Solo che giustamente noi ci stiamo dando l'anima, quindi nel frattempo il lavoro comunque c'è, e non diciamo che c'è proprio una fretta. Però comunque... Ah, tra l'altro sull'album nuovo una cosa che ovviamente non vi diremo niente, però ci saranno grandi nomi dentro. Special guest. Esatto, alt però, non saranno, perché noi la vediamo così, no? Quello che possiamo fare noi, cioè suonare i nostri strumenti, io cantare le mie parti. Insomma, ciò che noi facciamo non sarà, diciamo, replicato da altri, no? Ok. Più che altro ciò che noi non possiamo fare, non sappiamo fare, sarà fatto da qualcuno che lo sa fare. Che lo sa fare, lo sa fare un gran bene. Bene. Esatto. E poi, visto che siamo in addirittura d'arrivo, però nel mese di marzo, questa settimana, partiranno altre date per voi. Sì, esatto. Mm-hmm. Partiremo con i Rotten Christ. Se un vuoi. Certo, un tour che certo puoi di, citare. Sì, poco. Poco hai estratto il fogliettino. Esatto, magico. Perché poi non è che me li ricordo tutti. Allora, il 14 saremo a Pescara, a Rock House. Poi il 15 al Sottosopra di Este a Padova, il 16 al Jade Break di Roma, poi per una data qui vicina che è a Settimo Milanese a Knoll Easter Fest che è al Pallagranaio. Okay. Quindi giusto. Tra l'altro per... saranno lì con noi il Leta Mors e gli Ira, che sono due band milanesi di amici prima di tutto, ma anche di ottimi musicisti, quindi venite a vederli perché meritano veramente un sacco. Bene, allora noi intanto andiamo ad ascoltarci l'altra canzone. Ricordo, abbiamo ascoltato in apertura The Craving, che è il brano che dà il titolo all'album. Ascolteremo Who Is Key per concludere il tutto, e poi quando avrete pronto l'album nuovo, gli spazi ci sono. Grazie, ci rivedremo. Mille, ok, grazie, ciao. Ciao a tutti. Ciao.